si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati in diretta, staremo insieme sino alle 10, riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi cominceremo con i nostri approfondimenti. Oggi parleremo anche, ricordate i famosi 1000 giovani per la cultura, il progetto lanciato dall'allora ministro per i beni culturali Massimo Brai. Ebbene, dopo ritardi, ricorsi e molte confusioni, sono arrivati in 150, nel senso che sono arrivati i fondi non per un anno ma per sei mesi, e non per mille ma per soli 150 di questi giovani per la cultura. Questo era il nome del progetto di allora, sono delle borse di studio, degli stage, secondo alcuni però sono lavoro precario scarsamente retribuito. Una buona notizia a metà, ne parleremo più avanti. Adesso riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine alle pagine dei giornali di oggi, qualche intervista, qualche approfondimento. Chiuso il capitolo delusione azzurra ai mondiali in Brasile, abbiamo letto un po' di commenti, parliamo di cose diciamo più serie. Ma allora, intanto c'è l'accordo probabile per quanto riguarda i vertici europei. Unione Europea, scrive Repubblica, l'accordo è fatto, commissione a Juncker, Schulz a Strasburgo. Il capo del socialdemocratico Martin Schulz sarà riconfermato presidente del Parlamento Europeo, via libera ieri dalla Merkel. Cioè tutto cambia perché niente cambi, se questa è l'Europa che deve cambiare, figuriamoci. Riconfermato il presidente dell'Europarlamento, il presidente della commissione dovrebbe essere il conservatore Jean-Claude Juncker, che non era voluto dalla Gran Bretagna ma è appoggiato dalla Merkel. Insomma, una vittoria della Merkel su tutta la linea, che si becca la conferma alla Commissione Europea con Juncker e porta a casa un tedesco alla presidenza dell'Europarlamento, anche se un socialdemocratico. Questo è quello che si profila in Europa. Quindi c'è un altro approfondimento che invece sul Corriere, che riguarda sempre questo tema, ed è una premessa affinché tutto questo si avveri. Cioè il super vertice della sinistra europea oggi a Parigi per dire basta ai dogmi dell'austerità. In realtà, più che di riforma dell'austerità, si parla di una maggiore elasticità nella interpretazione, diciamo, dei criteri europei. Leggiamo: l'Italia in questo contesto ha un ruolo decisivo. Il voto europeo ha indebolito Hollande, ha rafforzato Renzi, ed è quest'ultimo che ormai guarda a quest'ultimo ormai guarda il fronte antirigore in Europa. Lo ha confermato il nostro ministro dell'economia Padoan, che ieri a margine della riunione dei responsabili delle finanze a Lussemburgo ha detto: è venuto il momento in cui crescita e occupazione diventino priorità. La Francia quindi si affida all'Italia e agli altri paesi europei governati dal centro-sinistra perché Berlino accetti di interpretare le regole in modo meno rigido, per esempio escludendo dal calcolo del 3% gli investimenti per le riforme, dalla transizione energetica alle infrastrutture digitali. E anche questa è una cosa di cui si parla da tempo, cioè togliere dai vincoli del debito, del deficit soprattutto, gli investimenti, insomma, che gli stati possono fare anche per e soprattutto per ammodernare le infrastrutture, ma per rilanciare l'economia e l'occupazione. La Germania spinge perché il conservatore lussemburghese Juncker venga nominato a capo della Commissione europea. L'Europa di sinistra dunque è pronta ad appoggiarlo contro il no della Gran Bretagna, ma in cambio chiede non un cambio delle regole, solo l'applicazione di quelle esistenti, cioè del patto di crescita, di stabilità e di crescita, senza dimenticare la seconda parola, cioè appunto la seconda parola che è la crescita. Per quanto riguarda invece l'Italia e le riforme, allora c'è l'accordo, scrive il Corriere. Ecco come cambierà il Senato. Allora, ieri c'è stata un'intesa sugli emendamenti da portare alla riforma del Senato, un'intesa tra Forza Italia, il PD, ma anche la Lega, questa è la novità. I contenuti: 100 componenti e non eletti direttamente, 74 senatori saranno eletti dai consigli regionali tra i loro membri, gli altri 21 senatori saranno eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province di Trento e Bolzano tra i sindaci delle regioni, quindi consiglieri regionali e sindaci, in una composizione numerica che ancora non è chiara, il tetto però è di 100 senatori, quindi una riduzione netta di un terzo. La fiducia all'esecutivo sarà data solo dalla Camera dei Deputati, il Senato avrà altre funzioni. Per esempio, entro 10 giorni dall'approvazione di una legge alla Camera, il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi membri, può chiedere di esaminare, proponendo una modifica a questa legge. Intanto il retroscena che scrive il Corriere riguarda l'incontro che ci dovrebbe essere, ci sarà mercoledì, tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sul tema della legge elettorale. Incontro che però sa tanto di farsa, diciamolo subito. Perché? Perché il PD ha appena trovato un'intesa con la Lega e con Forza Italia sulla riforma del Senato. Sembra difficile che questo possa portare fuori dai binari anche la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Italicum, che nasce proprio da un accordo tra Berlusconi e Renzi. Quindi perché fare questo accordo con Grillo? Probabilmente per dare a Grillo la possibilità di dire ai suoi elettori: noi non stiamo con le mani in mano, vedete, facciamo delle proposte, poi però il PD non le accetta. E infatti, diciamo, come si arriva a questo incontro? Scrive il Corriere: avanti con una strategia chiara, i democratici devono capire che siamo seri, afferma un esponente del Movimento 5 Stelle. I nostri elettori vedranno davvero che vogliamo creare una opportunità per cambiare questo paese, e se dovesse fallire non sarà stato per nostra mancanza di volontà. E quindi questo, diciamo, è il modo in cui si arriva a questo incontro. Grillo: missione per studiare il match col PD, per ora il tavolo resta, sceglieranno loro. Cioè il Movimento 5 Stelle scarica sul PD il fatto di che non sarà trovato sicuramente un accordo tra questi due partiti sulla legge elettorale. Ieri c'è stato un vertice alla Casa Leggio e Associati con i vertici della comunicazione del Movimento 5 Stelle e rappresentanti parlamentari che poi andranno a questo incontro. Il Messaggero invece si incarica di darci un'altra notizia, essa è un'altra inchiesta, questa volta mazzette sulla costruzione delle galere, carceri, un affare di famiglia, scandalo, appalti, 9 indagati. Insomma, ci mancava anche questa. Il marito, Sergio Minotti, è un ingegnere del Ministero della Giustizia e direttore dei lavori di ampliamento delle carceri di Voghera, Frosinone e Campobasso. Allora, leggiamo meglio, Sergio Minotti, ingegnere del Ministero della Giustizia, direttore dei lavori di ampliamento delle carceri di Voghera, Frosinone e Campobasso. La moglie, Raffaella Melchionna, è sia il direttore operativo degli stessi lavori, sia la figlia di un signore, Marco Melchionna, a sua volta titolare di una ditta di costruzioni. È in buona parte un affare di famiglia e caso di corruzione all'interno del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè gente che ha incarichi dentro e fuori il ministero, che dirige i lavori e affida questi lavori in mazzette e via andare. Tra, scrive il Messaggero, i 9 indagati c'è Angelo Sinesio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria e a lungo braccio destro dell'ex ministro Anna Maria Cancellieri. Queste indagini sono partite da un esposto presentato da Alfonso Sabella, ex direttore delle risorse del DAP, oggi vice capo dell'organizzazione giudiziaria, e anche da un'inchiesta avviata interna dall'ex capo del DAP, Giovanni Tamburino, e comunicata al ministro Orlando. Insomma, mazzette in cambio dell'affidamento dei lavori per la costruzione di questi carceri. A proposito sempre di inchieste, il Fatto Quotidiano con un altro approfondimento, che è questo: Expo, quell'indagine che non si deve fare. A cosa si riferisce il Fatto Quotidiano a proposito delle inchieste su Expo? Cioè al braccio di ferro interno alla Procura di Milano, incassata la vittoria al CSM con il viatico di Napolitano, il capo della Procura di Milano, Bruti Liberati, rimette nell'angolo Robledo. Così scrive il Fatto. Ora c'è l'area omogenea per commissariare le indagini sull'evento business del 2015. In pratica ci ricorda Barbacetto sul Fatto Quotidiano, il braccio di ferro dentro la Procura di Milano con Robledo, che è titolare di una parte delle inchieste su Expo, quella grossa, diciamo, con le inchieste sulla pulizia dell'area, un lavoro da 98 milioni di euro vinto dalla Coop Rossa CMC, ma l'altra inchiesta sulla costruzione della piastra, cioè la base di tutte le strutture dei padiglioni, gara da 197 milioni, conquistata dalla Mantovani. Per queste vicende sono stati arrestati Antonio Rognoni, direttore generale di Infrastrutture Lombarde, e una nutrita serie di avvocati, in pratica l'intera struttura legale amministrativa che seguiva le gare per l'esposizione universale. Dall'altra parte c'è la Boccassini, che indaga sull'altra parte di appalti che hanno portato agli arresti di Maltauro, Frigerio e Greganti, inchieste che secondo il Fatto Quotidiano sono inchieste minori. In questa diatriba la Boccassini non avrebbe le competenze per indagare, perché lei è titolare dell'antimafia e qui la mafia non c'entra nulla. Alla fine la soluzione che è stata trovata è questa area omogenea all'interno della Procura di Milano, che indagherà su tutte le inchieste che riguardano Expo e che farà capo direttamente a Bruti Liberati, il capo della Procura di Milano. Per questo il Fatto Quotidiano dice: Bruti disinnesca Robledo, che sottinteso sarebbe il PM duro e puro che porterebbe avanti le inchieste. Ecco perché il titolo principale è quell'indagine che non si deve fare. Un po' contorta questa cosa del Fatto Quotidiano, però insomma, ognuno di interpretare e di vederla come crede. 800 24 00 24, fermiamoci qua con i giornali di oggi. Adesso invece facciamo una pausa, torniamo tra un attimo, cominciamo con i nostri approfondimenti, le buone notizie. La prima è una buona notizia a metà, perché erano partiti i mille giovani per la cultura, sono arrivati in 150. Vedremo dove vanno Pompei, la Reggia di Caserta, ma anche i restauri dopo i danni al patrimonio culturale in Emilia Romagna. Tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, quanto resisterai? Poi non dirà, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita. La grande onda dei mille giovani per la cultura è diventata un rivolo d'acqua. Erano partiti in mille, diceva un'altra canzone, e sono arrivati in 150. Ricordate la vicenda? L'allora ministro per i beni culturali Massimo Brai annunciò un piano mille giovani per la cultura, un progetto che poi era diventato 500 stage di formazione all'interno per la valorizzazione del patrimonio culturale in Italia. Qualche giorno dopo Enrico Letta, con una mezza gaffe, parlò di 500 assunzioni a tempo per digitalizzare il patrimonio culturale, e allora lì si capì che più che un piano di formazione era un piano di lavoro sottopagato. Insomma, da allora la notizia di questa settimana è che siamo arrivati, dopo corsi e ricorsi, al dunque. Ma da 1000 che erano, 500 che erano poi diventati, sono 150 tirocini di 6 mesi pagati 1000 euro lordi al mese. Una buona notizia a metà, a un quarto, decidetelo voi. Noi ne vogliamo parlare insieme al presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi in Italia, Salvo Barrano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è uno di quelli che ha visto il bicchiere mezzo vuoto e insomma ha protestato già all'inizio di questa vicenda. Io ho ricordato questo passaggio così di consegne tra Brai e Letta, qualche lapsus, non si capiva bene qual era la notizia. Poi insomma voi eravate già critici allora, però vogliamo partire intanto dal dire che cosa è stato finanziato, che quindi diciamo questa piccola goccia in un oceano, che però è una notizia diciamo positiva presa in sé per sé, no? No, non sono d'accordo neanche su questo. Sono integrale. Allora sospendiamo il giudizio, poi non è che dobbiamo essere d'accordo, mi affido al suo giudizio, però le chiedo di dirci qual è esattamente la notizia che è avvenuta questa settimana. Il bicchiere io lo vedo tutto vuoto, però diciamo sospendiamo il giudizio. Questo bando, questa misura del governo, peraltro presa con decreto legge, prevede la possibilità per 150 giovani di effettuare tirocini su alcuni siti e istituti di cultura individuati dal ministro per far fronte ad esigenze, diciamo, di urgenza, di emergenza. sì. Perché su questi siti si dice ci sono dei problemi, sì. Per la precisione questi siti sono appunto Pompei, sono la reggia di Caserta, certo. Sono le aree terremotate, sono altre due siti che adesso diciamo le dirò. E sulla base appunto di questa emergenza si dice che c'è bisogno di potenziare gli organici, potenziare il personale, e quindi si ricorre a questo. Quindi nulla a che fare, Barrano, mi scusi, con la questione di cui aveva parlato poi Letta in un secondo momento, cioè la digitalizzazione, parola difficile, del patrimonio culturale. Qua parliamo proprio di interventi, così diciamo, per tamponare un po' le emergenze, un po' alla solita, insomma, eh? Beh sì, diciamo l'impostazione è sempre quella di emergenza, a parte che mi risulta difficile pensare che all'Aquila in questo momento ci sia un'emergenza. L'emergenza c'è stata. Beh, ci fosse ancora l'emergenza sarebbe grave, perché sono passati 5 anni dal terremoto. Appunto, quindi diciamo è una concezione un po' magmatica, un po' troppo larga dell'emergenza, perché se dopo 5 anni non ci si riesce più a, non ci si riesce ancora ad organizzare in maniera, come dire, strutturale per far fronte ai problemi, non all'emergenza, dell'Aquila, diciamo è quasi una missione di incapacità da parte del governo o di chi ci governa in generale. Comunque, senta, ma Barrano, scusi, lo stanziamento diciamo complessivo per questa misura rispetto a quello di cui si era parlato inizialmente, a quanto ammonta? A 1 milione di euro, che diviso 150... Beh, non è molto. Persone, no, è una miseria. Io intanto mi scusi, poi la faccio proseguire. Voglio coinvolgere gli ascoltatori, lo dico subito, all'800 24 00 24, come ogni mattina, come ogni sabato mattina. E sono chiamati insomma ad intervenire per dire la loro e per dirci se questa è o può essere o no una buona notizia, se addirittura è una cattiva notizia. Solo 1 milione di euro per questa iniziativa, dovevano essere 1000, poi 500, adesso sono 150, doveva essere un anno, sono 6 mesi di tirocinio, pagato 1000 euro lordi al mese. 800 24 00 24, se c'è anche qualche archeologo all'ascolto ci piacerebbe, perché tra l'altro questa, Barrano, degli archeologi italiani è una vicenda veramente triste e annosa, perché è una categoria importantissima, fondamentale, ma che stenta a trovare contratti, a lavorare in Italia, dove abbiamo il patrimonio mondiale culturale, il 50% secondo l'UNESCO, è una follia assoluta. Esattamente come dice lei, in Italia gli archeologi, come altri professionisti dei beni culturali, non hanno un riconoscimento, cioè non sono figure professionali riconosciute, e questo diciamo rientra in una tendenza a sottovalutarne il ruolo e l'utilità sociale, e questi bandi continuano a tradire questa impostazione. Lei consideri, appunto, sta insistendo sul fattore numerico, da 1000 sono diventati a 150, ma questo era stato annunciato come misura per il lavoro, e un conto è il lavoro, un conto è un tirocinio, appunto. Anzi, il rischio è che per non, diciamo, che si ricorra al tirocinio per mascherare rapporti di lavoro, perché di fatto nella premessa del decreto e delle misure governative si fa riferimento a questa emergenza, a questa necessità di rinforzare il personale, e poi tirano fuori invece 600 tirocini. E poi ultimo, diciamo, tema scottante: se io ho bisogno di selezionare dei tirocinanti, appunto lo faccio in un'impresa o in un ente dove poi questi tirocinanti hanno una qualche chance di poter lavorare, di poter trasformare questa formazione in rapporto di lavoro, quando invece sappiamo tutti benissimo, compreso il governo, compreso il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro Franceschini, che il Ministero non può assumere. Tanto più che non può assumere perché diciamo c'è un blocco. Il blocco delle assunzioni, certo. E soprattutto non può essere questo il canale di assunzione, perché apparirebbe discriminatorio selezionare a monte dei giovani per non poter stabilizzarli senza aver fatto un concorso a largo adatto. A questo punto, a questo punto, rispetto alla famosa affermazione di Franceschini, ministro per i beni culturali, che al suo insediamento disse mi hanno chiamato a guidare il primo ministero economico in Italia, Questa frase lei come la vede? Cioè come una provocazione che rimarrà tale, quasi come una barzelletta, oppure ha ancora un briciolo di fiducia su questo che possa diventare realtà? No, su questo diciamo non solo ho fiducia, ho molto rispetto e anzi ho apprezzato l'espressione del ministro, perché finalmente denota consapevolezza. Noi sappiamo come il nostro Ministero dei Beni Culturali per anni è stato considerato una cenerentola, e le politiche occupazionali messe in campo dal Ministero per il lavoro, perché poi sa, lo sappiamo bene, anche la qualità del lavoro che un esercito in un'amministrazione poi fa la differenza rispetto anche all'innovazione, rispetto alla capacità di affermarsi, rispetto appunto alla qualità dell'offerta, anche turistica. Ecco, quindi se il ministro Franceschini, insediatosi, prende consapevolezza e lo comunica ai cittadini, che ha coscienza che quello è un ministero economico strategico per il paese, io penso che sia una buona notizia. Speriamo. Senta, un'ultima cosa in 20 secondi perché dobbiamo chiudere. Questo bando per questi 600 tirocini è aperto? Come fanno gli aspiranti archeologi o insomma aspiranti valorizzatori del patrimonio culturale ad aderire? Guardi, sul sito del ministero sì. È possibile consultare diciamo tutto. Un link apposito per le procedure. Per mandare la propria candidatura. Va bene, sul sito del ministero. E in bocca al lupo ai giovani archeologi italiani. 800 24 00 24. Grazie a Salvo Barano, presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi, per essere stato con noi. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua, buongiorno anche a Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Alessio. Ben ritrovato. Grazie, stai bene, tutto bene? Tutto bene, ci tengo molto a questa cosa degli archeologi. Rilancio di nuovo il numero verde, 800 24 00 24. Tra l'altro personalmente ne conosco alcuni e so che fanno una fatica terribile a lavorare. È pazzesco che in Italia gli archeologi non possano, non abbiano da lavorare. Invece secondo me dobbiamo specializzarci molto di più in archeologia piuttosto che nel gioco del calcio, si può dire così? Scusami se entro un po' a gamba tesa dritto per dritto, però diciamo dopo la partita di ieri non si può farne a meno, ecco. Non si può farne, è stata un po' deludente, È stata una cosa che non lo so, la sensazione era che fossero in un film. Ho sentito un commento di Insigne che ha fatto una partita tra l'altro bruttissima, poi ha accettato il secondo tempo ma non ha trovato spazio, che ha detto addirittura è andata bene perché potevamo prenderne due. Beh è vero, il rigore c'era assolutamente, sì. Ma comunque no, ma soprattutto allora anche la Svizzera poteva prenderne sei dalla Francia. No, però ho sentito anche un sacco di giustificazioni e lamentele che mi sembravano veramente del vittimismo assurdo, del tipo ma non abbiamo riuscito, siamo riusciti a recuperare, ci saranno sei giorni tra una partita e l'altra. Diciamo che se fossimo stati in un film io avrei detto che i nostri giocatori erano avvelenati, non so, dall'acqua probabilmente che gli avevano dato, perché sembravano veramente dei fantasmi. Ma comunque non parliamo di calcio, che non è il nostro, giusto? No, esatto, assolutamente. E invece la settimana è stata bella anche perché sono stati, diciamo, sia in questa sia in quella precedente caricati su internet un po' tutti i discorsi che abbiamo fatto al Pride, di cui qua abbiamo già parlato. Io sono stato al Roma Pride il 7 giugno e ho caricato anche il mio discorso che ho fatto, che mi lascia sempre un po' stupito, del fatto che improvvisamente sia diventato un militante. E sul mio canale YouTube, che è Carlo Gabardini, c'è il discorso che ho fatto al Pride. Parlo di questo per un semplice motivo, perché si ha la sensazione che i nostri discorsi al Pride siano stati ascoltati dal Premier, che non era in piazza come invece c'era il sindaco Marino a Roma, in quanto Matteo Renzi, all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico a Roma, ha dato anche una data per le unioni civili. In realtà questa è una notiziona, poi che cosa accadrà non si sa, però come ho scritto sul mio Facebook trovo importante sottolineare che sia un cambio totale di rotta, perché spesso si dice si parla troppo, anche qua a noi in trasmissione ce lo dicono, Alessia una volta, no? Si parla troppo di omosessualità, però spesso si parla di omosessualità diciamo quella esibita, quella che dà meno fastidio perché è riconosciuta riconoscibile, quella degli stilisti, quella dei coming out, quel tipo lì, anche della mia, se vogliamo. Qualche invece volta lo dico anch'io che se ne parla troppo, ma non quando esatto. Si parla però, di questi temi. Però se ci pensiamo, in realtà per anni abbiamo sentito parlare di Dico, Pax e tutte le possibilità di nomi più astrusi per il matrimonio fra coppie di persone dello stesso sesso. Invece adesso finalmente si parla di unioni civili, ovvero di civil partnership, anzi dirla tutta in realtà è alla tedesca, quindi sono le Lebenspartnerschaft, che è tra l'altro una parola bellissima, come l'hai pronunciato bene, che significa l'unione per la vita, e equiparando in realtà questo tipo di unioni al matrimonio eterosessuale, ovviamente per il momento senza la questione dell'adozione dei figli. Però è un cambio di rotta interessante, ovviamente dobbiamo vigilare se questo avverrà o non avverrà, ma per il momento secondo me vanno i complimenti a Matteo Renzi, che come aveva detto durante le primarie si è occupato della questione dei diritti civili. Detto questo, le reazioni, ovviamente c'è stata la reazione di Giovanardi, che addirittura ha detto su queste questioni cade il governo, ma per la mia rubrichina mi sembra più interessante la reazione invece di Roberto Formigoni, che ha twittato immagino già cosa, dicendo diciamo che quella di Renzi è semplicemente una provocazione, e chiosando con il mio voto non l'avrà mai. Ovviamente la rete si è scatenata nei confronti di questo tweet, non sto a leggere farne tutti, a meno del voto di Formigoni, esattamente, cioè, sostanzialmente era chiedo che a Renzi non gliene freghi una cippa, diciamo, questo è anzi direi che molti tweet erano anche molto più volgari, non entriamo nello specifico. Comunque un altro tweet divertente: caro Formigoni, te lo diciamo tutti in coro, del tuo voto bigotto nessuno se ne frega. Questo è uno dei tweet, no, per dire, anche perché cielo, sono legittime tutte le posizioni. No, ci mancherebbe questo. Ma infatti non però è sulla posizione, l'Italia sia pronta a un passaggio del genere, mi sembra che lo dicano anche, insomma, i sondaggi, più della classe politica che tentenna quasi in una melina per non smarcarsi da posizioni infatti, esattamente questo, che portano voti, che è esattamente quello che ho detto al discorso del Pride. Vediamo, che vediamo. Voglio dire, siccome ci si può sposare anche in un altro paese di fianco, e questa cosa arriverà anche in Italia, bisogna farsene una ragione, non c'è nessun dubbio su questo, è solamente una questione di tempo. Visto che è una questione di tempo, facciamo che sia il più presto possibile, non si capisce perché bisogna soffrire in questa maniera. Ma per non dare solamente notizie del mondo gay, siamo in ritardo. Allora ti do una notizia brevissima di una cosa che abbiamo, di cui abbiamo parlato qui, ovvero del fatto che non si può fumare nelle spiagge. Una notizia che la notizia in realtà è che il sindaco Zed di Cagliari è stata data la prima multa per una sigaretta in spiaggia. Il suo modo in cui l'ha comunicato su Facebook è stato questo: spiaggia del Poetto, la prima multa non si scorda mai. Per chi l'ha presa, infatti continua sempre lui su Facebook, vale soprattutto per chi l'ha presa: €50 per una sigaretta spenta sulla sabbia. Abbandonare rifiuti sull'arenile può costare sino a €250, i controlli continueranno. Questo quello che ha fatto il sindaco. Poi volevo parlare di Starbucks, ma ne parlo domani. Divieti sulle spiagge, ne avevamo parlato in una puntata in cui tu eri a Roma, tra l'altro, per il Gay Pride. Esatto, vedi che tutto torna. Tutto torna. E quindi vanno avanti i sindaci su questa linea 800 24 00 24. Mi sa che non c'è tempo per sentire l'ascoltatore Cristian da Milano, però lo sentiamo sicuramente dopo il giornale radio. Io rilancio il mio appello per tutti quelli che lavorano nel mondo della cultura, della valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare gli archeologi italiani. Chiamateci, perché c'è questo bando. Erano partiti 1000, poi erano diventati 500, adesso sono 150 tirocini di 6 mesi per la Reggia di Caserta, Pompei e altri siti. Insomma, buona notizia o cattiva notizia. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E ricordiamo anche i nostri account su Twitter: chiocciola si può fare 24, quello del programma, il mio chiocciola Le Maurizi e il mio chiocciola Carlo Gabardini. E va bene, c'è Massimiliano Perri che su Twitter ci scrive se sulle unioni civili si può dissentire o vale solo il pensiero unico, hashtag, cioè il vostro. Ho già risposto in prima persona dicendo di certo che si può dissentire, infatti ho parlato trovato solo dei dissensi, non saresti solo. È ovvio che si può dissentire, ci mancherebbe altro. È buffo questa cosa che quando si parla di questi temi poi c'è sempre questa critica del pensiero unico, cioè se uno espone un pensiero, come hai fatto tu, positivo a favore della proposta sulle unioni civili, si parla c'è il pensiero unico, invece ci sono le critiche. Assolutamente. Poi ci sarà una sintesi in Parlamento, però la legge non c'è. No, non c'è, ad essere precisi c'è anche un sacco di persone della comunità LGBT che in realtà non sono d'accordo perché vorrebbero una piena parificazione totale, nel senso di non sentirsi cittadini di serie B e quindi di avere tutti gli stessi diritti, mentre questo non presuppone tutti gli stessi diritti, ma molti dei diritti mentre aspettiamo necessari. Di sentire gli archeologi, i giovani o meno archeologi italiani che io ho convocato per commentare la notizia dei 600 tirocini. Ci si può candidare sul sito dei beni culturali. Voglio dire una cosa io, me la fai dire questa cosa qua? Ci mancherebbe. Ieri sono stato a un bel incontro al Teatro Politeama di Cascina, organizzato da una radio nata all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Pisa, Collegamenti. Insieme a tanti ragazzi c'erano David, Luca, Stefano, Dana, Rafael, Valentina, ma sicuramente me ne sono dimenticati almeno due o tre. Ragazzi che hanno fatto nascere una radio che va in onda su Punto Radio, appunto una radio locale toscana, all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, quindi persone che hanno alle spalle ma anche vivono una forma di disagio mentale, che sono in cura in qualche modo, che stanno uscendo da questo percorso difficile anche grazie alla radio, la radio come spazio clinico. C'era tra l'altro ospite anche il fondatore di Colifata, che è una radio incredibile nata a Buenos Aires dentro l'ospedale psichiatrico negli anni 90, dove c'erano 1300 persone rinchiuse, una radio che ha avuto un successo enorme, straordinario. E questa è una cosa bella. Bellissima, mi sembra. Te l'avrei chiesta in realtà, perché sapevo di questo, sì, di questo. Ci tenevo molto. Di questo tuo. Secondo me, Carlo, noi dobbiamo molto portarla avanti questa cosa qua, sperimentarla, fare qualcosa con loro e con altri. C'era Psicoradio di Bologna, un'altra di Modena. Anche un po' per dire, se posso fare io lo stagista, ci mancherebbe altro che, voglio dire, non possano farlo i matti, giusto? Vengono fuori delle cose straordinarie. Esatto. Veramente straordinarie. E dico matti con estremo affetto. Ho anche fatto un film, tra l'altro, che si chiama pure Si può fare, come ben sì, sai, che era sul mondo dei matti dopo la legge Basaglia, che non bisognerebbe chiamare matti, insomma, vabbè, il solito discorso, lo sappiamo tutti. No, che è una coincidenza qualcuno pazzesca, che però, come dire, ci unirà per sempre. Esatto. Questa cosa qua. Vabbè, momento nostro. No, invece era perfetto, giusto. Allora, c'è un ascoltatore che chiama dall'Aquila, Gian Domenico, però lo sentiamo tra un attimo, perché l'Aquila è una di quelle inserite nel bando del Ministero dei Beni Culturali, perché prima dobbiamo sentire Cristian, che era in linea già da prima. Buongiorno Cristian da Milano. Buongiorno. Gli ascoltatori. Prego. Io chiamavo perché sono una via di mezzo tra, diciamo, gli archeologi e coloro che ci lavorano. Sono anche un docente universitario, quindi conosco bene tutta la situazione. Sono assolutamente d'accordo col presidente dell'associazione archeologi di prima, che è un bicchiere da vedere assolutamente vuoto, perché a parte la cifra essere ridicola suddivisa su 150 persone che lavoreranno a tempo determinatissimo e quindi dal punto di vista professionale non avranno sto granché. Concordo pienamente con lei invece sul fatto che la situazione dell'archeologia italiana è in uno stato quasi pietoso. Tanto per darle una chicca, molta dell'archeologia italiana si basa addirittura su regi decreti del 1800. Però per degli archeologi forse è buono che siano delle leggi così antiche, giusto? Sono lo stupido dei due, le chiedo scusa, non sono giornalista, buona, ovviamente. Anzi, secondo me dovreste scoprire delle leggi ancora più antiche, che probabilmente sono anche migliori, non so, del 1200, dell'800, nel senso. Prego. Probabilmente anche così, il problema è che, come dice giustamente lei, andrebbero scoperte. Se ci fossero archeologi che lavorano, magari le scopriremmo anche. Anche le leggi. È perfetta. La situazione è quella, purtroppo non abbiamo manco gli archeologi. Accetto la battuta, perché è perfetta, sembrava quasi preparato questo scambio. Grazie Cristian, grazie. Grazie mille. Andiamo invece, come detto, all'Aquila. Gian Domenico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei su che cosa voleva intervenire? Sì, sono sempre sulla stessa questione, sono responsabile del CNR dell'Aquila, Istituto per le tecnologie della ricostruzione. Ci stiamo occupando di questo terremoto dal 6 aprile e anche di questi aspetti archeologici, tant'è che abbiamo fatto una ricerca insieme alla Direzione Regionale dei Beni Culturali sul patrimonio archeologico emergente, chiaramente danneggiato dal terremoto del 2009 nel cratere, e abbiamo rilevato tra le altre cose che molti dei danni che sono stati riscontrati si sono rilevati dove erano stati fatti i cosiddetti, io li chiamo, interventi di restauro, quindi la mano dell'uomo ha peggiorato la situazione che c'era prima del terremoto e che il terremoto ha messo in evidenza. Un'altra questione importante è che qui, diciamo, gli interventi all'interno dei centri storici dell'area del cratere, che sono oltre 300, sono praticamente fermi ormai da 5 anni, a parte il centro storico dell'Aquila dove sì, finalmente i lavori sono cominciati, anche a buon ritmo devo dire, per il resto del cratere praticamente la situazione è ferma, è fotografata al 6 aprile 2009. Insomma, neanche lei è in grado di darci alcuna buona notizia su questo fronte, mi dispiace, ma del resto è un tasto talmente dolente questo. Anzi, io ricordo che si può chiamare come sempre il sabato e la domenica per raccontare invece che cosa ha reso più bella la vostra settimana, magari se tra una doglianza e l'altra di un archeologo riusciamo a inserire anche qualche racconto. Ho la sensazione che non saranno degli archeologi che chiamano per dare ottime notizie. Beh, comunque insomma andateci sul sito del Ministero dei Beni Culturali per questo bando, saranno pure 6 mesi solamente a 1.000 euro lordi, però come dire, meglio di niente. Anna da Venezia, buongiorno. Da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Allora io non entro direttamente nello specifico problema di questo provvedimento ministeriale, sì, però volevo dare un contributo alla discussione un po' generale. Allora, perché non possiamo sostituire gli attuali custodi dei siti archeologici e dei musei con giovani archeologi? Perché vuole mandare in pensione gli anziani? Scusi. Senta, introducendo squadre di pulizia alla fine dei turni di chiusura. Non voglio far fare le pulizie agli archeologi, per carità. Però ho visto custodi, Pompei, Ostia Antica, Museo Archeologico di Ancona, quelli che mi vengono più in mente, sì, custodi che non fanno niente aspettando la fine del turno. No, se noi introduciamo personale di custodia qualificato, chiaramente siamo in un momento di crisi, l'archeologo deve poter sperare di fare un domani l'archeologo, ma in questo momento, in questo periodo, se noi introducessimo personale di custodia qualificato come i giovani archeologi, si farebbe un salto di qualità, farebbe fare un salto di qualità a questi luoghi della cultura. Ci sarebbe, Anna, è come dire, la sua è una proposta un po', grazie Anna, una proposta un po' provocatoria, è chiaro, perché... No, anche cioè, perché questi che fanno i custodi hanno diritto, sì, anche loro a lavorare, insomma, sì, in qualche modo. Poi capisco che uno dice, vabbè, ma se fai il custode e non ti interessa niente d'archeologia, sarebbe meglio che tu fossi... Però devo dire che Anna, secondo me, un aspetto l'ha centrato. Cioè, c'è la schizofrenia per cui abbiamo i custodi che non possono far altro che i custodi, magari ce ne sono... forse fin troppi, assunti in periodi di vacche più magre di adesso, più grasse, e archeologi che non lavorano, cioè le figure top, no? E invece se tu vai a vedere per esempio la situazione di Pompei, scopri che mancano proprio le figure di mezzo, cioè per esempio gli artigiani, quelli che possono, certo, aggiustare concretamente, fare dei piccoli lavori di manutenzione, cioè quindi quella via di mezzo. No, questo è verissimo, adesso sicuramente chiamerà qualcuno dicendo però gli archeologi non vogliono fare quel lavoro lì, perché io mi sono laureato come archeologo, sì, e quindi non voglio fare il custode, però insomma il problema continua. 800 24 00 24, traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Lui teniamo una domanda, ma chi giudica, chi giudica? E oggi casa può rimane logica, casi rimane in erma, non cagna niente, tiene piede fritta a vierna, lui guarda ma in doppi nocla, sti bastardi con mi ogna, senza rischio carcerata, proprio come in domanopola. Lui teniamo una speranza, la camba rimane. Una speranza, per capa rimana, rimane una speranza, per capa rimana, ma non sai che sta cava sulla bocchi rimana, rimane una speranza, per capa rimana, rimane una speranza, per capa rimana, rimane una speranza, per capa rimana, ma non sai che sta cava sulla bocchi rimana. Hai riconosciuto queste le note di questa canzone, Nuvolim una speranza, è la colonna sonora di Gomorra la serie. Certo, la serie che è andata in onda su Sky, ha avuto un grande successo, stanno già preparando la seconda serie. Sì, una bella serie davvero, una bella fiction davvero. Ho visto una bellissima affermazione del protagonista che dice mi odiano tutti, quindi è perfetto, perché giustamente lui è cattivissimo in quella serie, quindi vuol dire che il personaggio è assolutamente riuscito. Benissimo. Esatto. Per usiamo questa canzone in realtà per parlare di tutt'altro. Siamo comunque a Napoli, il movimento Napoli è viva ha lanciato una mobilitazione in questi giorni per risolvere il problema atavico dei parcheggi abusivi. Ora sembra una cavolata, forse è addirittura una cavolata. Hanno chiesto l'appoggio del sindaco di Napoli De Magistris, hanno avuto un incontro, hanno fatto delle proposte, però io credo che nella vita di tutti i giorni un granellino di problemi nasca anche da questo, una città certo, come Napoli, forse certo. Non solo a Napoli. Per chi abita a Napoli a sentirvi parlare è un problema effettivamente gigante, insomma. E allora ne parliamo con Carlo Claps, che è cofondatore dell'associazione Napoli Evviva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie. Buongiorno. Uno degli animatori di questa iniziativa. Intanto, questo fenomeno del parcheggio abusivo a Napoli resta ancora un problema, pratico, ma anche di principio in qualche modo. Cioè, una di quelle cose attraverso cui si veicola un senso di caos, di confusione, di illegalità in città? Sì, certo, questo è un problema che in questa città è molto sentito. Noi in effetti con questa iniziativa abbiamo realizzato tra l'altro anche un video documentario e abbiamo affrontato il problema intervistando persone non solo qui in città a Napoli ma anche a Milano e a Roma. Abbiamo allargato un poco a tutte le grandi città metropolitane. È un problema soprattutto a Napoli effettivamente molto, molto sentito, però mi va di precisare una cosa se me lo permettete. Certo. Napoli è viva. È un movimento che nasce, è stato presentato proprio il 19 giugno, quindi due giorni fa. In quell'occasione noi abbiamo parlato concretamente del problema del parcheggio abusivo, però come dicevo mi va di precisare il fatto che per la prima volta a Napoli nasce un movimento che cerca di riunire tutte le persone che amano questa città e che cercano di trasformarla in un posto migliore. Sembra un'utopia, una cosa molto, molto difficile da realizzare, però come diceva lei, un granellino alla volta, si possono, piano piano si possono raggiungere grandi risultati. E la cosa bella è che siamo partiti creando questo movimento, sì. Che, voglio precisare, è nato dall'unione di Adda Passanottata, che sono dei giovani certo. Veramente che avevamo già conosciuto in altre occasioni per altre iniziative di questo, per esempio sulla Terra dei Fuochi, e invece il 19 giugno sì. Sono venute oltre 700 persone, quindi vuol dire che la gente ha risposto. A Napoli insomma vuole reagire, vuole proporre qualcosa di nuovo, vuole cercare di risolvere almeno una parte dei problemi che adesso ci dici anche che cosa avete proposto al sindaco De Magistris. Io però sì. Sottolineo, mi sembra interessante questa cosa proprio dei parcheggi abusivi. Per esempio nel video che avete registrato con proprio De Magistris, il sindaco racconta un episodio e dice: quando si parla di parcheggio abusivo davanti a una scuola è venuta una signora e mi ha detto dovete agire finalmente perché qua non se ne può più di queste doppie terze file parcheggio abusivo, cioè. E poi subito dopo è arrivata un'altra che ha detto sì però sindaco davanti alla scuola per un minuto lasciare il bambino, farlo entrare, consentitecelo perché questo non è parcheggio abusivo ma è semplicemente flessibilità. Ecco, in questa due posizioni sta un po' tutto il tema poi del rispetto delle regole della legalità. Mi sembra interessante che voi abbiate deciso di dire non abbassiamo l'asticella, non creiamo flessibilità che poi dilagano e diventano caos, ma dobbiamo essere intelligenti, lotta ai parcheggi abusivi. Però voi che cosa avete proposto di fare concretamente al sindaco? È proprio questa la differenza insomma del nostro movimento. Noi abbiamo cercato non solo di fare un evento presentazione, ma abbiamo portato abbiamo cercato di essere concreti, quindi presentando delle proposte concrete per risolvere, almeno per cercare di risolvere il problema. In effetti le proposte iniziali sono tre. Cioè, noi a Napoli abbiamo il problema delle strisce blu, il costo per parcheggiare nelle strisce blu è altissimo, è il più alto in Italia. Allora abbiamo chiesto al sindaco di cominciare con un piccolo passo, tra virgolette piccolo, quello di ridurre praticamente il costo almeno della prima ora delle strisce blu a un centesimo, a 60 centesimi al minuto, all'ora, mi scusi. E poi abbiamo il sindaco recentemente ha fatto un'ordinanza molto interessante, cioè permette ai vigili urbani o alla polizia di poter confiscare gli introiti realizzati illecitamente dal parcheggiatore abusivo. Noi abbiamo chiesto al sindaco di rendere visibile queste confische online, quindi giorno per giorno, quindi il valore delle confische effettuate, e di destinare queste somme al trasporto pubblico. Ma la cosa più interessante è che noi abbiamo, per aiutare il sindaco a fare ciò, abbiamo regalato al sindaco e all'amministrazione comunale un sito internet e un'app, un'applicazione, per permettere a tutti i cittadini di poter segnalare in diretta la posizione del parcheggiatore, e se quel parcheggiatore, quanto ha chiesto per il parcheggio abusivo, se ha estorto, ha cercato di estorcere queste somme in maniera anche insomma violenta, e quindi insomma è per facilitare il compito all'amministrazione comunale di individuare giorno per giorno i parcheggiatori abusivi, e soprattutto di far rendere conto all'amministrazione comunale in che modo vengono estorti soldi ai poveri insomma cittadini o automobilisti, e questo faciliterà anche il lavoro dell'amministrazione, che dovrà comunque rendere conto alle varie segnalazioni, quindi non potrà a fine anno insomma trarre delle somme non visibili o non chiare, perché con tutte le segnalazioni che ci saranno sicuramente nel momento in cui verrà prodotto, insomma partirà questa sì. Sarà più difficile per l'amministrazione non rendere conto del lavoro fatto dai propri vigili o dalla polizia. Quindi diciamo, noi abbiamo cercato di portare qualcosa di concreto, è un piccolo passo, però bisogna essere attivi, bisogna agire, non bisogna insomma rimanere indifferenti, inerti e solo lamentarsi, bisogna muoversi. Noi speriamo di, con questo piccolo inizio, di aver fatto qualcosa di utile per la nostra città. E la risposta è stata grande, sono venute tantissime persone, questo per noi è già un grande segnale. E speriamo che gli automobilisti non la prendano troppo male, nel senso che già ci sono stati problemi con le pedonalizzazioni, per esempio a Napoli qualcosa non è andato per il verso, adesso si inaugura la lotta al parcheggio abusivo, speriamo che non sia guerra tra la giunta e associazioni come la vostra, magari, e gli automobilisti, che restano una categoria che ben folta. Folta, che vota e infervorata, non so come dire. Comunque, certo. In bocca al lupo per questa iniziativa. A voi di Napoli Evviva, intanto ci state provando e questo ci fa piacere. Grazie. Grazie mille. Grazie, buongiorno. Allora, tralasciando il dialogo ormai tra te e Massimiliano Perri, che sta andando avanti su Twitter, no, sulla questione dei diritti, vabbè, mi sembra che abbiamo appianato. Sì, io sono assolutamente d'accordo che ognuno può avere la posizione che preferisce. Lui dice: ma sull'unione civile si può dissentire? Gli ho detto: certo che si può dissentire. Lui dice: ha sensazione il mio dissenso vale meno del tuo assenso. E invece io gli dico che secondo me lo deve chiedere le sue sensazioni, non a me, perché io non penso minimamente sia così. Poi, se vogliamo, possiamo discutere del fatto che è un diritto che c'è nella maggior parte dei paesi, e diciamo, io sono a favore dei diritti civili, e uno certo che può dissentire e dire: io non sono a favore dei diritti civili. E invece ci stanno chiamando ancora per la questione degli archeologi, credo, e sentiamo Giovanni che ci chiama da Pesaro Urbino, dalla provincia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona giornata. Buona giornata. Ascolti, no, volevate una bella notizia, no? Sì, sì, magari. Allora dico questo: io chiamo da Sant'Angelo in Vado, un paesino a 30 km da Urbino, nell'entroterra. Sì. Sapevamo già che sotto nel nostro territorio c'era un tesoro, e quello era il tartufo bianco. Ma pochi anni fa è stata scoperta una domus risalente al primo secolo avanti Cristo. E in un paesino di 4.000 abitanti essere riusciti a tirare fuori una cosa così, con dei... Cioè, tirare fuori, lei intende che oltre alla scoperta è stato possibile poi renderla, sì, pubblica e visitabile. Renderla pubblica è da pochissimo tempo, credo 5-6 mesi addirittura, visitabile, perché è stato installato un impianto di luci in notturna. Molto bene, bello. Gli archeologi... Questo, mi scusi, dov'è che accade? Sì. Sant'Angelo in Vado, a 30 km da Urbino. Cioè, mettiamo una bandierina sulla mappa, sulla cartina d'Italia. Delle buone notizie, sì, del si può fare, mettiamo una bandierina. E noi monitoriamo tutto, poi facciamo anche la classifica per regioni. Adesso l'abbiamo un po' abbandonata questa iniziativa, ma ce l'abbiamo sempre lì. Grazie mille, Giovanni. Questa era una bella notizia. Un'ottima notizia. Si candida seriamente per vincere una coppia di biglietti e anche il prezioso catalogo, sempre per le mostre. mostre a Torino dei Preraffaelliti. Ma pensavo perché il nostro inviato invece quello è terminato il nostro gioco di inviato cercasi. Anche se io quest'estate poi gli inviati li voglio risentire, li voglio ricoinvolgere in qualche modo. Marco dalla provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io niente, io dirò una cosa forse controcorrente, però sono d'accordo con quello che ha detto prima lei. Qui gli archeologi servono, sì, per il nostro patrimonio è importante scoprirla, ma è importantissima la conservazione. Noi non abbiamo più figure di mezzo, come dice lei, per la conservazione, per il restauro. Se mi frana un muro, l'archeologo può dirmi datarmelo, ma ricostruirlo. Questo purtroppo è vero, ha ragione. Lo stesso, la stessa cosa, mancano le figure che sono in grado di restaurare il nostro patrimonio. Io l'ho sentito dire, scusa Carlo, l'ho sentito dire al sovrintendente, a più di un sovrintendente di Pompei, ma anche ad altri insomma esperti, che in effetti a Pompei per esempio uno dei problemi è quello che ci sono molti guardiani, non sufficienti ma comunque molti, un po' di archeologi, tanti architetti, però nessuno che possa andare a intervenire, devono chiamarli da fuori. Carpentieri, sì, no, è che in realtà per agire su quel tipo di strutture serve un archeologo che decida, nel senso che diciamo non è che l'archeologo semplicemente data un reperto. No, era anche divertente detto così, dice vabbè grazie, tu mi puoi dire di che anno è, però mo ho bisogno dei cardini, adesso chi chiamo? Devo chiamare un fabbro. Ci vogliono tutte e due, e probabilmente in termini numerici mancano più artigiani. Ma possiamo dire che in termini numerici mancano i soldi sostanzialmente, sì, non è che non mancano le figure professionali. Vabbè, questa era anche l'opinione dell'ascoltatore. Certo, 800 24 00 24. Facciamo una pausa, torniamo tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Sulle note di Pharrell Williams, di questa bellissima Happy, c'è una notizia che ci rende veramente felici, è il fatto che a Padova 10 ragazzi down lavoreranno tutta l'estate in una gelateria, si chiama Fly Down, vola basso, ed è un'iniziativa dell'associazione Down Daddy di Padova, grazie anche a due giovani imprenditori, Giovanni Frasson e Federico Alessi, evidentemente grazie anche a programmi televisivi come Hotel 6 Stelle, abbiamo imparato a capire bene che i ragazzi down sono bravissimi ad interagire con i clienti nell'ambito per esempio della ristorazione o dell'accoglienza, insomma nel dramma della disoccupazione in Italia per i ragazzi down è quasi impossibile trovare lavoro, invece in questo settore ci sono delle possibilità, ne parliamo con Patrizia, spero di dire giusto, Tolotto. Presidente, sì, giusto, sì. Buongiorno. Perché per esempio ci redarguiscono sempre quando diciamo Padoan e non Padoan. Ma sappiamo invece è Padoan, lo sappiamo dalla sua viva voce. E anche nel suo caso è Tolot e non Tolot. Beh, sarebbe Tolot. Ah, ecco. Allora ci corregga, noi siamo molto contenti di essere corretti. Di sbagliare e di migliorare. Di venire corretti, anzi. Patrizia corretti. Tolot, presidente dell'associazione Down Daddy di Padova, per l'appunto. Complimenti per aver realizzato questa cosa. E ce ne parli un po', ci racconti com'è nata questa iniziativa. Allora, nasce da lontano perché noi crediamo da molto sulle potenzialità dei nostri ragazzi e diciamo che un po' la nostra fama nella zona è conosciuta e quindi queste due validissime persone che sono il Giovanni Frasson e il Federico Alessi hanno pensato alla nostra realtà per questa idea che è veramente innovativa. Quel che mi premeva dire è che i ragazzi sono tutti ragazzi con disabilità al 100%, quindi a differenza delle altre esperienze dove si cercano ragazzi molto dotati, no? Sì. Qui noi andiamo per la prima volta a dare una possibilità a tutti veramente. Esatto, infatti loro sono sempre affiancati da un operatore. Cioè, perché di solito invece, perché di solito invece queste esperienze riguardano ragazzi down che non lo sono, diciamo, non hanno la malattia al 100%? Mi scusi se sbaglio le parole, che non sono un esperto. No, certo, non è, perché la sindrome è una malattia genetica e certo. Basta. Diciamo che sono persone molto selezionate, quindi sì, un numero molto esiguo, e che hanno delle caratteristiche di autonomia veramente eccezionali. Certo. Ma noi pensiamo che la possibilità di vivere esperienze inclusive come questa debba essere data a un numero più largo possibile. Mi sembra molto giusto, nel senso che fare della discriminazione all'interno della discriminazione sembra, se no, ancora più pericoloso. Io dico sempre che si gioca facile a lavorare solo con i più bravi, no? Certo. Vabbè, certo. Sì, non affossiamo diciamo le altre esperienze, magari ci sono casi in cui... Però è giustissimo, volendo essere inclusivi è molto giusto il vostro punto di partenza. Noi pensiamo che se c'è un piccolo aiuto, queste possibilità possono essere date ad un numero ben più largo. Sì, ma c'è con noi anche Silvia Zaramella, una delle ragazze che lavoreranno proprio nella gelateria. Silvia? Buongiorno. Fai cosa? C'è Silvia? Buongiorno Silvia. Buonasera. Buongiorno Silvia, ciao. Buongiorno. Io volevo sapere una cosa, ma è venuto Zaia, il presidente del Veneto, che ha detto che voleva venire a mangiare il gelato lì? Verrà. Verrà. Non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato. Lo state aspettando? Sì. Ok. Glielo vorresti preparare tu il gelato al presidente del Veneto? Magari sarebbe bello. Sarebbe bello, sarebbe un onore, insomma, per voi. Sei contenta di fare questa esperienza? Avevi mai lavorato prima in una gelateria, Silvia? No. È la prima volta? Sì. Come ti trovi con i tuoi colleghi? Siete in 10 ragazzi. Li conoscevi già gli altri colleghi di lavoro? Sì, li conosco. Sono bravi? Sì. Dai, raccontaci qualcosa, Silvia, non puoi dire solo sì, no. Lo fate voi il gelato? Sì. Lo preparate voi il gelato? E qual è il gusto che è la vostra specialità? C'è un gusto in particolare che vi viene bene? No. Tutti? Tutti quanti. Che gusti avete? Abbiamo fragola, abbiamo pesca. Sì, la frutta estiva. Melone. Sì. Ananas. Sì. E basta. Come basta? Ma non ci sono dei gusti un po' più strani? Questi sono proprio i gusti più classici. Beh, l'ananas è già un gusto abbastanza strano, devo dire. Sì. Abbiamo solo quelli alla frutta. Solo quelli Bravi, alla frutta. Che fanno bene, quelli lì. Io le dico sempre a mia figlia di mangiare la frutta, lei vuole solo il cioccolato. Cioè, non avete il gelato alla nocciola? No. A me piace quello alla nocciola, posso dire. Vabbè che la frutta fa bene. La frutta fa bene. Ma mia mamma sta ancora dormendo, quindi posso dire che mi piace quello alla nocciola. E quello alla Nutella? E quello alla Nutella moltissimo, ovviamente. L'hai detta tu però questa, Alessia. Questo l'ho detta io. Patrizia Tolotte, ancora con noi? Sì, eccomi qua, sono qua. Ottimo. Perché abbiamo il cellulare in due. Certo, sì. È giusto. Insomma, complimenti ancora per questa iniziativa, ci fa molto piacere. Andrà avanti per tutta l'estate, perché ricordiamo che è un progetto all'interno della manifestazione cittadina Bastioni 44, dico bene? Sì. Quindi insomma andrà avanti tutta l'estate. Ma c'è un motivo per cui ci sono solamente i gusti alla frutta? Sì, perché è un brevetto che prevede una preparazione semplicissima. Ma ecco perché sono quelli alla frutta. Ah, interessante. E vuole essere proprio anche un gelato molto naturale. Infatti il 50% è proprio solo frutta. E i ragazzi, per questo lo può fare anche Silvia, perché adesso Silvia si è un po' emozionata e non vuole... ci mancherebbe, non è un problema. Ma mi sarei emozionato anch'io a intervenire alla radio, devo dire. È una cosa come ospite facile, che mi sembra quasi impossibile che voi non lo sappiate, no? Certo. E loro hanno un preparato. Sì. E mettono dentro il contenitore del frigo e che poi viene miscelato. Ecco perché è molto facile e lo possono fare fresco ogni giorno loro. E i gusti sono ogni sera 4. Ma infatti era per quello che chiedevamo i gusti. Sì. Poi giustamente, insomma, l'emozione ci sta. Va bene, insomma, comunque io ho citato il programma Hotel 6 Stelle perché la docu-fiction della Rai su Rai 3 che abbiamo, tra l'altro ne abbiamo parlato anche qua noi da questi microfoni, che ci era molto piaciuta, aveva proprio aperto insomma, una visione nuova nelle prospettive di lavoro per i Down. Che credo che sia un po' il caso di cui ci stavi raccontando, dicendo che sono diciamo dei ragazzi scelti con delle abilità molto spiccate, no, giusto? Io dico che quando si parla di inserimento lavorativo canonico vero con lo stipendio, ovviamente si cercano persone che abbiano le requisiti, certo, io dico quasi normali. Certo. Noi vorremmo che invece, come questi ragazzi che adesso sono in stage, ci potessero essere anche delle forme molto più soft, che permettono però un accesso a tutti molto più ampio. Sì, giusto. Dica ai suoi ragazzi. È una guerra, non ve lo nascondo, perché politicamente, ecco, noi speriamo di vederlo presidente Zaia, anche per fargli capire tante cose, perché in questa regione è un po' faticoso far passare l'innovazione, non ve lo nascondo. In che senso è faticoso far passare l'innovazione? Ci faccio un esempio? No, faccio un esempio. Una ragazza come Silvia sarebbe frequentava un centro diurno dove costava all'incirca 2000 euro al mese al sistema pubblico. Sì. Da noi Silvia non costa nulla al pubblico, ce lo manteniamo in toto noi il progetto, però non abbiamo nessun riconoscimento pubblico per questo. Ah, questo certo. Quindi lei dice: noi facciamo risparmiare 2000 euro. Se riuscissimo a averne anche semplicemente 1000 dallo Stato, sarebbero tutti contenti. Ma nel senso, 1000 sarebbero una cifra No, vabbè, ho detto una cifra ovviamente mediana, non era piovuti dal cielo. Sarebbero comunque va bene. Certo. Patrizia, noi vi ringraziamo. Questa è la guerra che politicamente vorremmo fare, perché sono tutti molto combattuti. Vabbè, quando viene Zaia, diteglielo a voce, ma non solo lui. No, infatti. Le altre parti politiche sono molto resistenti ai cambiamenti. Mi dispiace dirlo. No, è giusto invece, è giusto dirlo. Va bene. Comunque può dire ai suoi ragazzi che sono uno stagista anch'io. Va bene, perché il politico in sé è una categoria molto rigida e dura al cambiamento. Va bene, Patrizia, ma che ci vogliamo fare, insomma? Speriamo che la notizia possa diventare sempre più larga e che quindi... A volte le cose si possono fare anche senza politici. Grazie a Patrizia Tolotta dell'associazione Down Daddy di Padova. Grazie mille per averci raccontato questa bella notizia. Certo, i politici dovrebbero dare una mano, però vedi, in questo caso si riesce a fare anche senza che il politico ci metta bocca. Un'iniziativa privata sostenuta da un'associazione e da due validi imprenditori. Anche gli imprenditori possono fare molto in questo, credendoci in iniziative come queste e insomma lasciando spazio ai ragazzi Down, che in questo settore possono dare molto. Ed è, ripeto, l'abbiamo visto tutti anche nel docufiction della Rai, Hotel 6 Stelle. Che sì, forse lì il cast può darsi che fosse scelto in maniera particolare. Sì, ma ci sta, non so se si riferiva a trasmissione. No, credo che stesse riferendo anche in generale, nel senso che capisco che sia un problema, che è più facile, come sempre. Poi devo dire che giustamente lei dice è una guerra, è anche un momento in cui già è un problema enorme trovare il lavoro per i giovani in generale. Immagino per chi ha dei problemi che sia molto più difficile. Sentiamo che un ascoltatore va al volo. Donato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Egregio. Buongiorno. Ascoltavo i vostri discorsi. Torniamo sempre allo stesso discorso, cioè quando che uno trovate l'abusivo, qualcosa dovrà pur fare dopo per portare a casa da mangiare, visto che ci hanno abituato a mangiare tre volte al giorno. Lei dice a proposito dei parcheggiatori abusivi, cioè trovare un lavoro ai parcheggiatori abusivi. Lo Stato ha miliardi e miliardi di soldi fermi nei tribunali per i sequestri che fa alle varie organizzazioni criminali. Perché non li mette in circolo? Va bene, Donato, sì, certo, problema del lavoro, però non è che si può trovare un lavoro ai parcheggiatori abusivi e non a quegli altri che pur non avendo un lavoro non fanno la scelta, diciamo, di fare delle cose illegali. Ecco, insomma, c'è anche gente che cerca lavoro legalmente, se non lo trova sta a casa o si arrangia senza mettersi a, non so, a spacciare o a fare altre attività illegali, tipo il parcheggiatore abusivo, che certo forse fa meno male dello spacciatore, però fa male anche lui. Credo. Carlo Gabardini mi guarda con aria perplessa. Non c'è capito un tubo su questo ascoltatore. No. Era un po' difficile dargli dietro. Ho capito. Cerchiamo sempre di tirare le fila di tutto, anche se a volte non ci riusciamo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sabato scorso ne abbiamo parlato con Daniel Tarozzi di ItaliaCheCambia.org, il progetto che vuole mappare il cambiamento in Italia. È un viaggio che terminava, che termina questo weekend a Monteriggioni in provincia di Siena al Festival della Viandanza. Stamattina ne parliamo con Davide Riondino. Buongiorno. Non c'è Davide Riondino. Ah, non avevo letto le comunicazioni della regia. Davide Riondino non risponde. Io l'avevo ipotizzato scherzando. Dorme, secondo me dorme Davide Riondino. Non so, lo conosco. Adesso lo chiamo io, gli mando un messaggino. Stavo per dire ricongiungiamo una coppia di attori, perché tu e Davide Riondino avete fatto delle cose insieme, eccetera eccetera. Ma hai detto: ah, sono contento che c'è Davide. Esatto, sono molto contento di sentirlo a spese di Radio 24. Ma te pensa, ragazzi, Festival della Viandanza. Dico due cose io, in attesa di riuscire magari a collegarci con lui, oppure anche no. Torna al Festival della Viandanza, ancora una volta a Monteriggioni, cuore pulsante della Via Francigena, nelle terre di Siena. 3 giorni all'aria aperta per chi ama viaggiare a piedi e in bicicletta. È un po' questo il senso della viandanza, il turismo slow. Per chi ha già scelto, vorrebbe scegliere una vita basata a ritmi più lenti, più umani. Decine di ospiti, tra cui appunto Davide Riondino, se poi ci andrà, perché se è a casa che dorme. Gian Maria Testa, Giuseppe Cederna, Antonio Moresco e altri. Sì, ha un sacco di manifestazioni collegate a questo Festival della Viandanza. In realtà, appunto, anche Gian Maria Testa fa un concerto e Riondino fa uno spettacolo. Diciamo recitando e cantando i nodi del cambiamento che si intrecciano nelle novelle di Boccaccio. Questo sapevo perlomeno, però ci piacerebbe sentirlo dalla sua viva voce, ma evidentemente è successo qualcosa e quindi noi sentiamo degli ascoltatori? Penso di sì. Stiamo chiamando qualche ascoltatore per chiudere la puntata. Intanto chiusiamo un po' l'argomento archeologi, perché allora, chi è l'ascoltatore che dice: sì, vabbè, non c'è bisogno di... ma che professione è l'archeologo? Ci vogliono ingegneri, non archeologi o laureati in lettere in questo paese parassita. Ora, questo ascoltatore non si firma, tra l'altro. Io lo sapevo che c'era il rischio che a parlare... cioè, volendo salvare e sostenere la categoria degli archeologi, che insomma in Italia è abbastanza bistrattata, credo ce ne sia bisogno. Dio santo, se non ce n'è bisogno in Italia, che abbiamo il 50% del patrimonio artistico e culturale mondiale, dove ci deve essere bisogno? Però, certo, piano piano, vedi, si impara. Abbiamo imparato che c'è bisogno anche di quelle altre figure di mezzo che fanno... Io invece vengo redarguito da un SMS, perché ho chiamato matti le persone con disabilità psichiche, al di là che già mentre lo dicevo lo spiegavo, avendo fatto un film su quel problema, e i matti ieri... si chiamano fra di loro matti, no, guarda... ma vengo redarguito da un medico che dice addirittura: preferisco non scrivere quello che penso di te, Gavardini, sì, mi dice. Io, guarda, dire, io... a parte che io mi autodefinisco ricchione, quindi ci mancherebbe altro che non si può dire matti ieri ai malati. Ho passato la giornata disabili psichici in mezzo a loro, ai animatori delle radio di Dipartimento di Salute Mentale di Pisa, e si è parlato molto anche di questo stigma. È importante non stigmatizzare, nel senso di non avere pregiudizi o di toglierseli, ma le parole servono anche per confrontarsi, no? Sì, e soprattutto è importante non essere offensivi, non prendere una posizione. Uno può anche dire disabile psichico intendendo delle cose bruttissime. La radio nata nell'ospedale psichiatrico di Buenos Aires, che è un caso mondiale, si chiama Colifata, che vuol dire pazzariello. Ma infatti, quindi loro ci scherzano. Ma infatti il modo è quello, però poi giustamente... Vabbè, sentiamo Ludovico da Milano, un ascoltatore per chiudere. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dirvi che, siccome sono un inventore, sì, ho più di 78 invenzioni su energie rinnovabili, risparmio energetico, mobilità sostenibile. Che bello, sono un inventore, già un incipit bellissimo, scusami se esatto, ti ho interrotto, sono lo stupido dei per due. Obama, io per Obama sarei la gallina delle uova d'oro. Mentre qua in Italia sono solo una gallina nera che praticamente viene... Il brutto anatroccolo. Il brutto anatroccolo. Cosa possiamo fare per te, Ludovico? Ma io volevo dirvi che per me questa settimana sta bellissima, perché ho conosciuto l'uomo che probabilmente mi cambierà la vita. E siccome io come inventore sono sempre alla ricerca di finanziamenti, ho conosciuto uno sceicco arabo. Ah, colpo di scena. Sì. Sì, e cosa... E lui è interessato molto alle mie invenzioni, soprattutto per i pannelli fotovoltaici che possono... Come si chiama lo sceicco, tanto per dare un tocco di credibilità a tutto questo? Non lo posso dire. Non lo posso dire. Grazie, Ludovico. Quando lo potrai dire, chiamaci e diccelo. E voglio conoscerlo anch'io. Creiamo lo sceicco arabo. Creiamo una storia. Va bene, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca, che anche lui scrive questo programma insieme a noi, nonché lavora in redazione, Nicolò in assistenza oggi in redazione, non ricordo il cognome, è un nuovo entrato a Radio 24. Filippo Regi in regia, ci sentiamo domani. Buona giornata da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao, ciao a tutti.